Amici del Fermi, bentornati qui da studio Alessandro Floridia e Marta Tumino. Dopo 3 anni di pausa ritorna alla radio Tutti Fermi. Sì, infatti, l'anno scorso era partito un nuovo progetto, la TV Tutti Fermi. Quest'anno invece ritorna la radio Tutti Fermi, anche se a differenza di 3 anni fa è molto diversa. Come, infatti, c'è la presenza di molta più musica e, oltre ai programmi prova che stiamo esibendo in questi primi giorni, ci saranno anche le dirette. Ci occuperemo di musica e di temi che riguardano la nostra scuola e dell'attualità, visto dal punto di vista dei nostri occhi, cioè degli occhi dei giovani. Per avere informazioni ulteriori sulla radio potete andare sul sito, dove ci saranno playlist e sondaggi, e ricordiamo che il sito è quello della scuola, www.liceofermi.rg.it, oppure specificamente c'è www.radiotvtutifermi.org. Inoltre potete parlare, potete interagire con noi, con la chat. Oggi vi faremo ascoltare un'intervista a un gruppo ragusano, gli Charm. Ce ne parleranno Giulia e Paola. Poi parleremo anche del caso Morgan, che è stato affrontato questo tema da Miriam e Sara, che nei corridoi hanno intervistato gli studenti della nostra scuola. E poi, infine ci sarà uno spazio dedicato al nostro DJ Giovanni, che manderà in onda delle canzoni prese dalla sua personalissima playlist, e parlerà anche della nostra pagina presente su Facebook. Come abbiamo detto, ci sarà molta più musica rispetto agli altri anni. Infatti cominciamo subito con l'intervista agli Charm, gruppo rock ragusano. Giulia e Paola, le nostre inviate nel mondo musicale locale, hanno fatto un'intervista agli Charm. Ascoltiamola. Ciao Ippolito. Ciao. Parliamo del gruppo iniziando dal nome, Charm. Che significato ha per voi? Charm, fondamentalmente nessun tipo di significato ricercato. Significa ciò che tradotto in italiano vuol dire fascino. Soprattutto noi ci siamo accorti che andando avanti il nome Charm si addiceva perfettamente a tutto ciò, al tipo di musica che facevamo, abbastanza fascinosa, tra virgolette. E questa è la storia di Charm. A chi vi ispirate o chi ti ispiri tu personalmente? Ma guarda, essenzialmente ci ispiriamo a tutti coloro che non sono mai scesi a compromessi, che non sono mai scaduti nello squallore. Per la voglia di stare al top, per dire, noi proveniamo da gente come gli Afrodite Child, i Funkadelic, i Led Zeppelin, e comunque sono stati sempre e solo i Led Zeppelin, e tutto questo, i Doors, e questa miriade di gruppi che comunque ancora adesso fanno per la maggiore. Che cosa vi ha spinto a creare un gruppo? Il fatto di stare a Ragusa. Perché la scelta è quasi obbligata, nel senso che ti offre poco, quindi se ti vuoi elevare sia dal punto di vista intimista che anche dal punto di vista culturale, devi scegliere di fare qualcosa che non abbia niente a che fare con tutto ciò che va per la maggiore da queste parti, ovvero avere una Mercedes o versi il sabato 2-3 pinte di birra, perché questo è ciò che importa qua fondamentalmente. Parlaci un po' dei traguardi raggiunti dagli Charm. I traguardi fino adesso diciamo sono pochi rispetto a quello che abbiamo fatto finora, però in ogni caso abbiamo un album in uscita, anzi che è già uscito il 26 dicembre. Abbiamo fatto un bel po' di date al nord, tra Roma, Bologna, Firenze, Cesena, e stiamo ripartendo a fine marzo per un altro mini tour da quelle parti. Siamo stati scelti tra le 5 migliori band emergenti al May di Faenza, e quindi tutti questi traguardi sono venuti e sono arrivati dopo quasi 5 anni di duro lavoro, e quindi dai, siamo soddisfatti. Eccoci con Miriam e Sara, che hanno intervistato durante la ricreazione i nostri compagni per capire bene il loro punto di vista sul caso Morgan. Ce ne parlate? Il caso riguarda Morgan, il celebre cantante escluso da Sanremo per le sue dichiarazioni sull'uso di sostanze stupefacenti. In un'intervista Morgan infatti aveva confessato di aver fatto uso di droga per combattere la sua depressione. Per queste sue dichiarazioni il direttore della RAI ha deciso di escludere Morgan dai cantanti che hanno partecipato a Sanremo. Subito gli italiani si sono divisi in due schieramenti: da una parte coloro che pensavano che Morgan sia stato uno sprovveduto, dall'altra quanti ritengono che comunque si tratti di un grande artista e come tale può permettersi anche certe libertà. Cosa avete chiesto allora? Se per loro Morgan era un buon modello o un cattivo modello. Bene, allora ascoltiamo questa intervista. Cosa ne pensi di Morgan? Secondo te è un idolo? Preso troppo con leggerezza questo discorso, però non bisogna perdere Morgan dal punto di vista di artista, perché è comunque un artista. Lui, parlando della droga, parlava della sua miseria, non di un consiglio da dare ai ragazzi di oggi. Quindi soprattutto adesso Giorgio Meloni sbaglia. Comunque la televisione ha detto tante bugie su di questo. Morgan è un buon modello o un cattivo modello? Dipende, perché alcuni suoi fan, ad esempio, lo potrebbero imitare, prendersi pure loro, però anche nella sua onestà potrebbe anche aiutare a quelli che si drogano a confessarlo e forse aiutare. Okay. Allora, sicuramente non può essere considerato come un buon modello, perché ora spingerà i suoi fan a drogarsi, perché ha detto che per lui è come un antidepressivo. Ascoltatori, tenetele d'occhio. Prossimamente continueranno ad intervistare. Nessuno al sicuro. Miriana, Sara e Fabiola della seconda E. Grazie ragazze. Alla prossima. Grazie, alla prossima. Come vi abbiamo anticipato, l'ultima parte del nostro programma è dedicato alla musica, le playlist che vi farà ascoltare il nostro DJ. Giovanni, ti puoi presentare? Sì, ciao a tutti, sono Giovanni. Il mio compito sarà di creare delle playlist che potete ascoltare sia nella radio e poi anche nel sito della scuola. Voi potete mettervi in contatto con me su Facebook, sul gruppo Radio Tutti Fermi, dove vi potete suggerire delle canzoni che potreste sentire in onda nel radio. Perfetto, vuoi farci ascoltare qualcosa adesso? Sì, possiamo ascoltare Stereo Love di Edward Maya. Finisce la nostra puntata. Un saluto ai nostri ascoltatori e ai nostri tecnici Davide e Luca. Alla prossima!